Allora, eccoci di nuovo in diretta e dall'altra parte del telefono l'avvocato Francesco Romeo. Buongiorno, avvocato. Pronto? Pronto? Mi sente, avvocato? Pronto? Pronto? Pronto? Francesco, io ti sento. No, non mi sento proprio. Allora, va meglio così? Adesso sì. Ecco, adesso sì. Allora, buongiorno innanzitutto, grazie di essere intervenuto. Dunque, sono state depositate queste sentenze, noi ti abbiamo chiamato per una valutazione, diciamo, a caldo, dal momento in cui peraltro sei stato così celere da leggerle, quindi insomma puoi con cognizione di causa certamente dare un giudizio più ampio e magari non semplicemente ricalcato su quelle che sono le agenzie o gli articoli che sono usciti nelle ultime ore. Un dato è certo, insomma, dalle sentenze le responsabilità degli apparati, anche di chi sta in alto, delle forze dell'ordine, emergono chiaramente, anche quelle, insomma, dell'allora capo di polizia, attualmente insomma vice sottosegretario ai servizi nel governo Monti, cioè De Gennaro, no? Sì, allora diciamo intanto alcune cose. Ora io non ho avuto modo di leggere questi commenti cui facevate riferimento sulla stampa di oggi, ne ho letti alcuni, mi sembrano parziali e un po' timidi. Ecco, intanto la prima cosa che dice questa sentenza è che è importantissima secondo me, da cittadino oltre che da avvocato rappresentante di persone che stavano all'interno di quella scuola, e che all'interno della Diaz la polizia, gli appartenenti alla polizia di Stato hanno esercitato tortura nei confronti di quelle persone che poi sono state arrestate, di quelle 93 persone che poi sono state arrestate. Quindi tortura vera e propria, anzi al plurale, torture vere e proprie di una violenza indicibile. La giustizia italiana si è dovuta fermare di fronte a questo, cioè non si è potuti arrivare a una condanna per il reato di tortura, perché il reato di tortura nel nostro codice penale non c'è. Questo dice intanto la sentenza sulla scuola di Diaz, e mi pare una cosa importantissima da sottolineare, da evidenziare, ed è anche quello che già avevamo detto anche noi difensori delle parti civili subito dopo la sentenza di luglio. Questa sentenza, e ora le motivazioni lo dicono chiaramente, chiede a chi sta in Parlamento di provvedere a sanare questa lacuna normativa. Insomma, è necessario che il reato di tortura sia introdotto nel nostro ordinamento. Diversamente comportamenti come questi rischiano di non trovare la giusta punizione e il giusto risarcimento per chi li ha subiti, visto che poi tutti i reati di lesione, perché così sono stati qualificati, sono stati dichiarati prescritti. Beh, a giudicare però scusi se la interrompo, avvocato, a giudicare diciamo dall'iter che ha intrapreso il provvedimento che era stato depositato, una proposta di legge sulla tortura, in realtà si sta prendendo una direzione di tutt'altro avviso, nel senso che sembra che si sia andati verso un totale insabbiamento. Ecco, bisognerebbe che insomma magari si faccia capire a questo governo dei tecnici, da parte anche dell'opinione pubblica, che ne so, esiste, punto interrogativo, una libera stampa in questo paese, perché se esiste si facesse sentire con il libero sistema di informazione. Bisognerebbe far capire, dicevo, a questo governo e a questo Parlamento che lo spread della democrazia si misura anche sulla tutela dei diritti civili e su un canone di civiltà, qual è quello dell'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento. Dicevo poi la seconda cosa più importante che possiamo trovare in questa sentenza, anzi che non troviamo, che è un buco enorme, un vuoto enorme, e che la sentenza non poteva affrontare, ma che dalla sentenza noi ricaviamo, è che tutti, dice la sentenza, che tutti quelli che sono entrati là dentro hanno commesso reati o di lesioni o di falso o di calunnia. Bene, noi sappiamo che dentro la scuola sono entrati 321 appartenenti alla Polizia di Stato, che nel frattempo saranno stati promossi, oltre agli imputati condannati, altri 321, che nel frattempo saranno stati promossi. Di queste 321 persone noi non conosciamo l'identità. Non conosciamo l'identità perché in buona sostanza la polizia che ha svolto le indagini durante la fase delle indagini preliminari ha di fatto ostacolato la loro identificazione. Quindi magari bisognerebbe pure cominciare a chiedere che il Ministero dell'Interno, l'attuale capo della polizia, si adoperano per rendere noti i nomi di queste persone che non, al pari di quelli condannati, non hanno diritto a rimanere all'interno della Polizia di Stato, pur non essendo stati processati. Ma di fatto, stando là dentro, hanno visto quello che è successo e non hanno fatto nulla per impedirlo. Così, anche sotto questo aspetto, la sentenza dice che i condannati sono responsabili. Sono responsabili per non aver impedito che i loro colleghi compissero quelle torture, per non averli arrestati e per non aver liberato i ragazzi che erano stati, le persone arrestate all'interno della scuola. O dunque stiamo parlando di 321. In più c'è un soggetto, anche questo non identificato, che all'epoca era un funzionario, perché ha firmato il verbale di arresto fonte dell'accusa e della condanna per falsa calunnia. Questa persona che ha firmato il verbale d'arresto, uno dei 14 firmatari, anche questo non è stato identificato. Per l'omertà che ha contrassegnato il comportamento evidentemente degli imputati di questo processo e del corpo e della Polizia di Stato italiana. Questo signore che ha firmato quel verbale d'arresto non è stato portato a processo, non sappiamo chi sia. Era già un funzionario dirigente all'epoca, oggi avrà percorso altre tappe in carriera e sarà in questo momento un altro dirigente della Polizia di Stato. Ecco, anche su questo sarebbe il caso che, se esiste appunto una libera informazione, autonoma informazione, si cominci a chiedere che venga indicato chi era questa persona e che venga anche lui posto fuori dalla Polizia di Stato. Quindi noi ci troviamo con 322 persone che a vario titolo sono entrati là dentro e hanno avuto responsabilità all'interno di quella scuola, che oggi fanno ancora parte della Polizia di Stato italiana, alcuni in ruoli abbastanza importanti, dobbiamo desumerne. Ecco, queste mi sembrano le cose intanto più evidenti, direi proprio macroscopiche, che si possono ricavare da questa sentenza, oltre alla sottolineatura dell'evidente responsabilità, se non giuridica, a questo punto chiaramente amministrativa e anche politica, di De Gennaro nel chiedere e ottenere a tutti i costi degli arresti per quella giornata, per riscattare l'immagine della polizia. E anche in questo caso, in un paese democratico, una persona che ha ricoperto incarichi altissimi nell'amministrazione dello Stato, cioè il vertice della polizia italiana, e che oggi è sottosegretario di questo governo, bisognerebbe che qui non solo, diciamo, la libera informazione, se c'è, si faccia sentire e faccia una campagna, ma anche questo Parlamento, insomma, se c'è qualcuno in questo Parlamento, qualche rappresentante parlamentare che, insomma, ha a cuore il buon nome delle istituzioni, per come viene così indicato, e il rispetto dei cittadini e dei diritti civili delle persone, inizi a chiedere conto a questo governo di questa nomina. Io non dico che bisogna chiedere le dimissioni di De Gennaro, perché ovviamente non è questo il punto, non gli si deve chiedere di dimettersi, secondo me, ma dovrebbe essere dimesso. Questo è il punto, e questo è il diversa la prospettiva dalla quale ha visto il problema. Beh, quanto? Sì, assolutamente, anche perché indipendentemente, insomma, dal fatto che c'è chi può o meno, insomma, coltivare ancora fiducia in queste istituzioni, resta evidente il fatto che queste sentenze e il loro contenuto gettano comunque un discredito molto molto forte, insomma, nei confronti della polizia italiana, per cui, come dici tu, no, Francesco, sarebbe un loro dovere cercare di fare pulizia, cioè dal loro punto di vista, insomma, ne va del prestigio, per così dire, anche dei corpi di polizia. Voglio dire, indipendentemente da come noi la pensiamo, noi con queste istituzioni dobbiamo fare i conti, no? Certo. E quindi ecco, bisogna porle di fronte alle loro responsabilità, alle loro contraddizioni, inevitabilmente. Perché se bisogna capire, almeno si faccia chiarezza su quello che intendono del termine democrazia, su cosa intendono per contenuto del termine democrazia, tutela dei diritti civili, insomma, in modo tale che si faccia chiarezza e tutti noi cittadini, insomma, possiamo capire bene con chi abbiamo a che fare. Io credo che questo, indipendentemente dal giudizio negativo o meno che si possa avere, insomma, nei confronti o della disistima che si possa avere nei confronti delle istituzioni, della politica istituzionale e parlamentare, io penso che però queste cose vanno poste, queste domande, queste questioni vanno poste all'attenzione di questi politici, di questi governanti, perché così almeno si capisca bene con chi abbiamo a che fare. E allo stesso modo, se anche dopo questa sentenza, dopo che per 11 anni si è andati avanti nascondendo, minimizzando o, come dire, cercando di far risaltare piuttosto le carriere di queste persone rispetto al massacro che era stato compiuto, anche l'informazione, anche il sistema dei media, insomma, è posto di fronte a queste stesse questioni che almeno io penso debbano essere sul tavolo della discussione attuale. Diversamente oggi ci sono stati sui giornali, ci saranno sui giornali, in televisione, sui siti due o tre, qualche commento più o meno, come dire, condivisibile. Secondo me la gran parte non lo sarà, perché nessuno credo che si spinga ad affrontare dei commentatori, non dico dei cronisti perché riporta le opinioni altrui, si spinga ad affrontare il tema della espulsione o meno dalla compagine governativa del Gennaro, o il tema delle persone che stanno ancora all'interno della polizia dopo aver fatto quello che hanno fatto. E quindi finisce qui, dopo uno o due giorni di commenti si chiude questa pagina e non se ne parla più. Bisogna che diventi un tema di discussione permanente fino a quando non si arriva a ottenere delle risposte, l'introduzione del reato di tortura e a seguire tutto il resto, insomma. Certo, e dunque l'intera catena di comando che è posta sotto accusa, dal grado più alto a, diciamo, i semplici operatori dell'ordine, quindi anche il discorso che spesso fanno relativo alle mele marce, eccetera, un po' viene scosso, no? Seriamente da questa sentenza. Beh, abbiamo dato prima i numeri sono imponenti, no? E abbiamo detto di quasi 350 poliziotti, 349 per essere precisi, all'interno di quella scuola che hanno effettuato questa, tra virgolette, perquisizione, ma in realtà questa mattanza. E c'erano tra di loro i vertici della polizia e la truppa della polizia, i reparti celere, insomma, dagli agenti ai più alti in grado. Sono stati condannati tutti. Sarebbe stato condannato anche la Barbera se non fosse morto nel frattempo, sarebbe stato portato a giudizio e condannato anche lui, ovviamente. Che ricordiamo è l'uomo che nel pomeriggio del 21 viene mandato, il 21 luglio, viene mandato da Gennaro a Genova per imprimere il cambio di passo definitivo alla domanda di arresti, del maggior numero di arresti possibili, ed è anche lui che, insomma, spinge per arrivare poi a questa benedetta perquisizione alla scuola di Azia. Senti, Francesco, rimane però ancora di più la sensazione che poi i diversi filoni dei processi, insomma, in merito ai fatti di Genova 2001 siano stati così messi in parallelo, e in un certo senso la giustizia italiana se l'è cavata con una sorta di bilancino che poi alla fine risulta davvero così discutibile, e mi riferisco chiaramente invece alla pesantezza con cui si sono condannati i compagni e le compagne, e tu lo sai benissimo, insomma, per devastazione e saccheggio. Dalla lettura della sentenza, insomma, ancora di più cresce il rammarico, la rabbia per... questa bilancia è fortemente asimmetrica, se come dire, l'intenzione era quella di bilanciare, in realtà ovviamente nelle mosse che poi hanno portato a quel processo era questa effettivamente l'idea di poter bilanciare l'uno e l'altro, la bilancia è asimmetrica, i due piatti non pesano allo stesso modo e non possono pesare allo stesso modo, perché una volta che lo Stato italiano, la giustizia italiana non può non prendere atto che dentro la scuola Diaz sono state commesse delle torture di indicibile violenza, e che quindi, diciamo, quelle persone che stavano là dentro sono state trattate come cose, come animali, non come esseri umani, no? Non può essere, non può reggere il paragone della, anche in già le condanne, già l'entità delle condanne farebbe capire questo, ma non può reggere il paragone con il comportamento di chi è stato accusato prima e poi condannato per aver rotto delle vetrine o per aver anche lanciato una molotov, insomma, non c'è, senza aver causato danno fisico ad alcuna persona, non c'è proprio alcuna possibilità di tenere sullo stesso piano le due cose. Ma questo credo che sia percepibile da chiunque, e senza tenere in conto che di quel processo alla fine i condannati a pena definitiva sono 5, e sì, 5, per altri 5 si dovrà rifare il processo che dovrebbe portare a un'ulteriore riduzione della pena per un reato poi che, insomma, abbiamo già detto più volte che questo reato di devastazione e saccheggio, così come è letto e interpretato dalla giustizia italiana, soprattutto a partire da un certo punto della nostra storia repubblicana, in particolare dal 2000 in poi, ha un problema, presenta la corda, insomma, perché non è possibile che la devastazione e il saccheggio siano ridotti a dei danni limitati a uno stadio, a una prigione o a uno quartiere di una città, ecco, non può essere così, insomma, e lo dice, come dire, il termine stesso che viene impiegato, devastazione e saccheggio, comporta la, come dire, un'estensione spaziale assai maggiore rispetto a quella lettura limitata che ne danno i giudici italiani in questo periodo storico, lo ribadisco, perché dal 48 al 2000, insomma, le sentenze emesse per devastazione e saccheggio sono davvero molto molto poche, a differenza di quelle emesse negli ultimi 12 anni. Certo, è proprio così, infatti. A chiudere, avvocato, oggi dovrebbe essere anche la giornata in cui il giornalista inglese Mark Covell verrà ufficialmente risarcito per quanto subito durante quella notte. Anche dalle sentenze, insomma, emerge quanto insomma ci sia stata una condotta davvero omicida, a questo punto si potrebbe definire. La violenza cieca, nei confronti di persone che erano ridotte al rango di nuda vita animale, senza alcuna dignità umana. Si è esercitata su alcuni con maggiore durezza, vedi Cowell, che ha pure rischiato conseguenze ben maggiori, e poi all'interno, perché lui è stato preso all'esterno della scuola, quindi è quello che ha, il primo ad essere stato oggetto di questa violenza bestiale da parte degli uomini in divisa. Eh sì, va bene, avvocato, noi la ringraziamo per il suo intervento. Diciamo ancora, come diciamo l'ultima cosa, che sì, la vergogna è che anche nei confronti di Mark Cowell è stato aperto un procedimento, non contro di lui, ma per individuare chi lo ha ridotto in quello stato, il reato è diventato omicidio, ma ancora oggi non si conoscono, sono ignoti i soggetti appartenenti alla Polizia di Stato che hanno usato violenza a Mark Cowell, e quindi questo processo è ancora in indagine e non va avanti perché non si riesce a identificare. Ma da questo punto di vista la posizione di Caldarozzi com'è rispetto proprio all'episodio che vede coinvolto Mark Cowell? Perché insomma lui, il fatto che fosse presente e abbia visto quanto succedeva, insomma. Sì, ma dicono che non conoscono, il problema è che dicono di non aver visto, di non riconoscere le persone che lo hanno massacrato. Vabbè. Una memoria davvero corta. Dicevamo, non si riesce a identificare, ma non perché perché ovviamente il ministero, la polizia, è impossibile che non sappia chi dei suoi appartenenti quella sera è andato lì. Evidentemente ci sono delle resistenze, non si riesce ad avere l'elenco dei nominativi, non si è riusciti. Va bene, avvocato, allora ci risentiremo in un futuro, insomma, per commentare ancora, insomma, le conseguenze di questi fatti. Va bene, grazie. Speriamo mille. Appunto che non ci si fermi qui. Sì. Questo è l'importante. Arrivederci, buona giornata a tutti. A risentirla, presto. Ubriaco.